Ecco, bravissima, è proprio centrato. Allora, si tratta proprio di fare spazio, perché abituandosi a osservare, qui bisogna precedere tutto con una con un gesto, con una mudra, che è quello di portare lo sguardo verso il punto tra le sopracciglia. Ecco lì, come noi immediatamente facciamo gli occhi storti, come si dice da bambini, no? Sì. Ecco, facciamo gli occhi storti e immediatamente prendiamo coscienza di quello che è lo spazio frontale, si chiama Chidakash. Ecco lì noi possiamo vedere un po' svolgersi tutte le cose del giorno, le cose che abbiamo fatto, quelle che si presentano spontaneamente, e ci rendiamo conto che nella nostra testa c'è moltissima confusione, c'è moltissimo disordine, c'è moltissima roba di cui dovremmo sbarazzarci, che sono vecchi ricordi, rancori, angosce, timori per il futuro e via via via. Ecco, quando noi riusciamo a mantenere lo sguardo in quel punto, ci rendiamo conto che le cose veramente essenziali sono proprio poche. Sono proprio poche e vengono attivate nella loro importanza proprio dall'abitudine a rivolgere lo sguardo in quel punto. Facciamo un po' di pulizia, sgombriamo la mente. Facciamo un po' di pulizia, sgombriamo la mente, esattamente. Per cui si vede che se tu fai scorrere i tuoi pensieri sullo spazio frontale, su questo Chidakash, vedi che sono sempre risolte cose. Certo. E tu dici, ma come, io devo perdere la mia vita così no. bella, così unica, così preziosa, a rincorrere delle cose di 20 anni fa, dei rimorsi, no. liberiamoci. E un saluto a Lisetta Landoni, un saluto a Daniele Belloni, vi rimando al sito Kriya Yoga di Lisetta Landoni e yogamamt.com di Daniele Belloni. Per oggi è tutto, grazie, un saluto, a domani.